Sì, buonasera, bentrovati, Radio Alma, Brussellando, martedì ai microfoni, martedì sera. E questa sera siamo particolarmente contenti di questa trasmissione che, come potrete ascoltare tra qualche minuto, svelerà due ospiti abbastanza particolari, anche perché le tematiche di cui parleremo sono estremamente un po' inusuali per la nostra Brussellando. Però poiché già nelle ultime settimane, insomma, abbiamo diversificato un po' la nostra offerta, come no, sempre diversificato, probabilmente questa sera l'apprezzerete ancora di più. Saluto in regia Dani M. Buonasera a tutti. Dani M, che questa sera è accompagnato dal piccolo François. Buonasera. E quindi, così, quando saremo in difficoltà in regia, a volte capita che Dani M non possa essere con noi, insomma, François sta imparando a manovrare anche a una tavola di mixaggio. Certo. Come sentite già in sottofondo, c'è il nostro Giorgetto. Eccoci, salve a tutti. E poi Fiordaliso, che completa la nostra equipe. Come dicevamo, questa sera ci sono... Che non l'ha detto neanche buonasera, cioè perché non l'ha detto? Perché non ha detto buonasera? Non lo so, perché buonasera. È stanca, è evidentemente stanca. Perché è stanca, a volte capita di essere stanchi. Quindi dicevamo in apertura, due ospiti molto particolari questa sera, e un ospite in studio qui con noi, invece un altro ospite sarà raggiunto telefonicamente, quindi avremo modo, insomma, di parlare di varie cose. E sono molto emozionata, non lo nascondo, perché, come dicevamo, è questa sera con noi Rosa Russo Iervolino, che, come tutti voi saprete, essendo io campana, cilentana, non napoletana, ma comunque campana, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere qui a Bruxelles. Sapete tutti che, insomma, possiamo chiamarti Rosetta? Certo, ci mancherebbe, ma dalla mia pessima voce mi riconosceranno subito, quella è l'unica qualità che nessuno mi disconosce. È un tratto distintivo. Beh, mi consolo così. Beh, a ciascuno il suo, direbbe qualcuno, quindi, insomma, ha svolto tanti ruoli importanti, è stata senatrice dal 1979, presidente della commissione parlamentare vigilanza della RAI, più volte ministro degli affari sociali, ministro della pubblica istruzione, nonché, come dicevamo in apertura, sindaco di Napoli dal 2001 al 2011. E abbiamo deciso, insomma, di organizzare già questa intervista anche perché ci avviciniamo all'8 marzo. L'8 marzo, come saprete, è un momento dedicato, un momento di riflessione, oserei dire, per l'universo femminile, e la puntata di questa sera infatti intende proprio aprire questa riflessione, che poi concluderemo il prossimo 6 marzo. E nei fatti quello che accade è che nella maggioranza dei posti di potere oggi praticamente questi posti sono occupati da uomini, che si tratti di politica, di religione o di economia. Purtroppo, con tutto il rispetto per gli uomini presenti e che sono in regia. Anche il mondo dello spettacolo, della cultura e dell'intrattenimento, salvo rare eccezioni, è prevalentemente declinato al maschile. Lei è stata la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di ministro dell'interno, nonché prima donna ad essere anche sindaco di Napoli. Quanto è stato difficile negli anni aggiungere un po' di rosa alle stanze del potere? Beh, è stato difficilissimo, ma non soltanto per me, è stato difficilissimo per tutte le donne italiane che in fondo hanno cominciato a conquistarsi la parità molto da lontano. Addirittura nella prima guerra mondiale, quando gli uomini erano al fronte, se il sistema produttivo Italia non si è fermato è perché le donne non hanno badato solo alla famiglia. E poi noi che siamo campane, cioè di regioni povere, di regioni di emigrazione, sappiamo che le donne si sono caricate un altro lavoro. Quando i mariti e i ragazzi più grandi andavano via, loro rimanevano sole nei borghi più sperduti con le bambine e con i bambini, e anche lì hanno fatto opera di supplenza. E poi nella seconda guerra mondiale è successa la stessa cosa che nella prima, per di più col fatto che molte hanno combattuto anche nella resistenza per liberare il paese. E poi c'è stata la fase bellissima della Costituente. Molti non sanno che le donne fino al 1945 non potevano né votare né essere elette, no? Quindi sono arrivate a Roma queste 21 donne, praticamente in prevalenza marxiste e cattoliche, e a livello di Costituzione hanno cambiato il mondo, rovesciata la situazione. E però quando siamo arrivate noi, la mia generazione, credevamo che tutto fosse fatto, ci siamo accorti che non era fatto nulla, perché loro avevano lavorato e ottenuto dei risultati enormi. Però c'era chi considerava la Costituzione una specie di bellissimo manifesto, c'è, la onoriamo, la appunto osanniamo, ma non la applichiamo. E allora il nostro lavoro a muso duro è stato quello di applicare la Costituzione prima nelle leggi e poi nei fatti. Lavoro non finito, Certo. Ah no, certo che no. A proposito di Costituzione, e poi ritorneremo sulle sue esperienze più importanti, lei scrisse una tesi di laurea che verteva proprio sull'articolo 37 della Costituzione. L'articolo sancisce gli stessi diritti e la parità di retribuzione tra uomo e donna. A distanza di tanti anni, quanto è ancora attuale questo suo lavoro? Purtroppo è attuale ancora, leggevo proprio oggi su un grande quotidiano nazionale, su Repubblica, che non in un'azienda privata di sfruttatori, ma nella RAI, in un'azienda di Stato, per quanto riguarda le consulenze femminili, ancora ci sono discriminazioni sia salariali, sia la discriminazione ancora più grave, cioè quella del licenziamento in caso di gravidanza. Quindi è una fatica che deve continuare, anche perché praticamente, soprattutto in un sistema di disoccupazione diffusa e in un momento di recessione economica, articolo 18 no, e io sono per mantenere l'articolo 18, quando c'è qualcuno da licenziare, beh, le prime sono sempre le donne. Ahimè, purtroppo effettivamente questa è una realtà che soprattutto in questo periodo di crisi si sta ripercuotendo soprattutto sulle donne, quindi sono nuovamente le donne ad essere penalizzate da questo momento difficile. Mi ha raccontato qualche giorno fa di questa sua soddisfazione quando fu nominato ministro degli interni, e me lo raccontava proprio in maniera abbastanza ironica, perché quando si è laureata, se non sbaglio agli inizi degli anni 60, purtroppo, ahimè, gli anni sono tanti. Insomma, l'età è anche sinonimo di saggezza, quindi c'era proprio addirittura l'impossibilità per le donne di accedere ad alcune carriere, come quella in magistratura oppure quella nel mondo diplomatico. Quando le fu proposto questo incarico, che cosa ha provato? Ma guardi, una grande soddisfazione, perché sostanzialmente io ero stata rifiutata, come tante mie colleghe, a un concorso della Polizia di Stato, ma un concorso come poliziotto. E allora che una persona rifiutata come poliziotto, perché donna, sia pure 40 anni dopo diventi ministro degli interni, beh, insomma, un po' di soddisfazione lo dà. Perché noi facevamo questo scherzo, cioè quando c'erano i concorsi in diplomazia, i concorsi in magistratura, eccetera, i concorsi anche nella Polizia di Stato, presentavamo domanda allegando alla domanda la laurea, il certificato di laurea con annessi tutti gli esami. Magari c'era una, per caso quella ero anch'io, ma ce n'erano tanti altri, che aveva 110 lode pubblicazione alla tesi, 30 lode in procedura civile, 30 lode in procedura penale. Avevo un professore splendido, Giovanni Leone, un napoletano simpaticissimo, di procedura penale, e con questo background venivamo rifiutati perché donne. Poi prendevamo una specie di rivolta pacifica questi certificati con la lettera di rifiuti e le mandavamo ai giornali, e piano piano, a forza di strillare, una vecchia deputata che adesso credo che abbia 92-93 anni, l'onorevole Maria Cocco, una sarda. Anche qui sarebbe da riflettere sul ruolo degli anziani, che spesso sono stati più aperti dei più giovani, riuscì a far abrogare quella legge che era una legge del 1919 e dal 1963 tutte le carriere sono aperte alle donne. Non le dico la soddisfazione quando per esempio è andata una prima donna nella Corte Costituzionale o quando Livia Pomodoro è stata nominata Presidente del Tribunale di Milano. Insomma, la mia è una generazione di grandi lotte, ma anche di grandi soddisfazioni. E che cosa vorrebbe dire, per esempio, ad Anna Maria Cancellieri, ex prefetto e ministro degli interni oggi in Italia, a distanza di 15 anni dal suo mandato? Ma credo che la Cancellieri non abbia nessun problema, perché bene o male, vede, la Cancellieri ha una esperienza fatta sul campo come prefetto di Bologna, commissario del governo al comune di Bologna, prefetto di Parma, eccetera. Io avevo una esperienza completamente diversa, perché venivo dalla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, cioè conoscevo chi ha il controllo parlamentare sul Ministero degli Interni, quindi conoscevo bene tutta la situazione del bilancio, delle norme, eccetera, ma non conoscevo le strutture del Ministero. Devo dire però che hanno risposto con grande rispetto, quindi alla Cancellieri di continuare tranquillamente a fare il suo mestiere come ha sempre fatto. E come crede che sia cambiato nel tempo il rapporto con l'intelligence? Questo è un altro tema di cui parleremo nella seconda parte di Bruxellando. Che cosa ha potuto notare, per esempio, il rapporto all'Islam e a queste nuove forme di terrorismo? Ma devo dire che per fortuna io ho avuto tanti guai, compreso appunto quello della guerra del Kosovo, che non pensavo affatto di dover in qualche modo essere coinvolta come responsabile delle strutture di soccorso. Però non ho avuto un periodo di terrorismo vivo. L'unico problema che ho avuto quando mi telefonarono dall'aeroporto e poi telefonò il capo della polizia dicendo che era arrivato Shalan e non sapevamo bene come comportarci perché era arrivato all'improvviso, poi fu fermato e rimpatriato. Devo dire che essendo una persona che ha sempre fatto della trasparenza e della correttezza di rapporti anche con gli avversari politici, oltre che con gli altri paesi, questo sistema dell'intelligence, dei servizi segreti, eccetera, era un sistema che mi attraeva poco, no? E devo dire, non vorrei, per amor di Dio, fanno un lavoro serissimo e poi c'è anche un apposito sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Devo dire che qualche volta mi è venuto anche da sorridere quando ci mandavano un rapporto al ministro, la cosa era molto solenne, arrivava in due o tre buste con cera lacche varie, arrivava sempre una persona non diversa per non farsi riconoscere come persona che portava cosa dei servizi, consegnava al mio capo della segreteria, il dottor Lavenuta, persona molto timorosa, proprio il classico servitore dello Stato, questa busta che mi veniva portata come se dentro ci fosse l'esplosivo. E per esempio io mi sono trovata ad aprire le varie ceralacche 1 e 2 e 3 per trovare un foglietto col segreto. E il segreto era: si avvicina l'anno santo, milioni di persone verranno a Roma da tutti i paesi, sarà difficile proteggere il Santo Padre, c'è paura di qualche attentato. Beh, quello lo sa anche François, che ha 10 anni e che sta in regia. Quindi io non ho mai, il tema è serissimo, ma non mi ha mai appassionato. Daniele dalla regia ha un suggerimento musicale. Beh, Monastero di Santa Chiara è una delle melodie. Santa Chiara è una delle canzoni più belle, però a me richiama in fondo al cuore il ricordo dei miei genitori, e vi dirò perché. Gli americani, bombardando Napoli, scambiarono la tettoia di Santa Chiara, che è enorme, per la tettoia di una struttura militare, e Santa Chiara è stata bombardata, proprio rasa al suolo. Dopodiché, come bombardarono Monte Cassino, promisero che avrebbero ricostruito sia Santa Chiara che Monte Cassino. Chiedo scusa agli amici americani, ma non arrivò mai neanche una lira, né se ne interessarono nel modo più, neanche più lontano. E allora mio padre, che in quel momento era, in quegli anni era ministro, rappresentava Napoli al governo, andò a elemosinare bilancio per bilancio, anno per anno, i soldini per far ricostruire Santa Chiara, e la Santa Chiara ricostruita è dedicata a lui. Quindi è il segno di Napoli che risorge, e che risorge con un po' di sangue anche della mia famiglia. A proposito di famiglia, allora vorrei anche ricordare sua madre, che è stata anche membro dell'Assemblea Costituente. Mi scuso se la pronuncia non è esatta, Maria de Unterrichter. La pronuncia è perfetta. E quindi magari brevemente un ricordo su questo personaggio che, su cui ho letto varie cose e che ho trovato estremamente moderno. Questo, no, il personaggio, innanzitutto una notazione sola, tornando indietro per un istante di una generazione. Io ho avuto due nonni. Uno era il padre di Maria de Unterrichter, era generale della finanza di Francesco Giuseppe. E il padre di mio padre, nonno Domenico, era vinaio del porto di Napoli, borbonico da morire. Quindi vi immaginate, appunto, che fra l'altro i due vecchietti andavano d'accordo. No, mia madre, appunto, era, è stato davvero un personaggio modernissimo, non solo perché è stata una delle 21 donne che è andata in Assemblea Costituente, ma perché sostanzialmente si è occupata soprattutto di servizi sociali in Italia, riuscendo a far cambiare con un'alleanza molto stretta fra cultura laica e cultura cattolica il concetto del servizio sociale da beneficenza fatta per generosità dei poveri a diritto dei cittadini al quale deve corrispondere un impegno delle istituzioni. E poi, se lei pensa che appunto mia madre è nata nel Rechtental, che è una valletta laterale del Tirolo meridionale, ha studiato a Innsbruck, ha sposato un napoletano, è stata amatissima, e lei lo può dire, parlamentare prima di Potenza in Matera e poi di Salerno e Avellino e Benevento. Quindi una cultura mideleuropea in famiglia l'aveva già tirata dentro. Tra l'altro, e questo lo svelo proprio così come curiosità storica, a parlarmi di Maria de Unterrichter, beh, non solo a me ma alla classe dell'epoca, fu proprio la mia insegnante alle elementari nel 1988, quando si ricordavano i 40 anni di Costituzione. E ricordo che ricevemmo il regalo dalla scuola, proprio un opuscolo della Costituzione che io ho conservato. E mi ricordo la mia insegnante parlarci proprio delle 21 donne della Costituzione, tra cui ovviamente sua madre, che era stata pure eletta nel nostro collegio elettorale. E come no? Quindi insomma è... Ma poi... lei era molto fiera di essere eletta dai meridionali, veramente. Certe volte, quando sento i discorsi di stampo leghista, non riesco nemmeno a indignarmi, ma nemmeno a capirli, perché mamma era una nordica di origine non italiana che aveva amato con tutto il cuore appunto l'Italia meridionale. Noi la pigliavamo in giro perché lei, per esempio, capiva benissimo il dialetto, però si piccava, voleva parlarlo, diceva le bestialità più grosse, e allora noi la prendevamo in giro. Lei sa che significa schizochea. Ecco, no, no. Allora si diceva mamma di schizochea e lei diceva e noi terrona fasulla. Però almeno ci provava, quindi ammirevole. No, e come no. Allora, a proposito di ricordi e di ricordi belli, nella sua lunga carriera immagino ci siano stati tanti eventi a cui è stata testimone. Tra questi però ce n'è uno che ricorda particolarmente con piacere? Ma guardi, veramente cose commoventi ce ne sono state tante, anche cose tristissime. Pensi, tutto il periodo, io non ero ministro però ero parlamentare, tutto il periodo degli assassini, essere arrivata per prima all'università a vedere Bachelet ancora sanguinante e non coperto, insomma tante cose tristi, ma vorrei finire con uno bello. Le ho detto che appunto sono stata a lungo e tante volte in Kosovo, all'epoca della guerra del Kosovo, perché la missione Arcobaleno era tenuta dalla protezione civile, allora c'era Barberi, e allora la protezione civile dipendeva dal Ministero degli Interni, non dalla Presidenza del Consiglio, quindi io mi sono trovata a dover organizzare e gestire i campi profughi con alcune soddisfazioni enormi. Per esempio, noi avemmo un problema ma anche una grande gioia, perché i campi che erano accanto a Kukës, parlo dell'estremo nord dell'Albania al confine con la Serbia e con il Kosovo, le donne del paese venivano a partorire su al campo profughi, perché c'era la tenda della Croce Rossa dove erano curate molto meglio che nell'ospedale. E per esempio la prima bambina che nacque, battezzata Italia, fu una festa enorme. Però il momento che io ricordo con maggior commozione è un altro. Noi dai serbi, per il diritto internazionale, eravamo considerati paese belligerante perché avevamo la base NATO di Aviano, dalla quale partivano gli aerei, no? E quindi come paese belligerante potevano sparare su di noi. E a un certo punto il campo profughi più avanzato a nord di Kukës finì sotto le linee serbe, c'era pericolo. E allora spostarlo era un disastro perché era gremito. Chiedemmo alle Nazioni Unite di metterlo sotto bandiera delle Nazioni Unite, e rappresentava il segretario generale dell'ONU, un personaggio che io ho amato e amo moltissimo, Staffan de Mistura, era vice segretario generale allora delle Nazioni Unite. E allora organizzammo in fretta e furia una piccolissima cerimonia spiccia in zona di guerra, non si fanno tante storie, cioè un bambino kosovaro ospite avrebbe dovuto alzare la bandiera delle Nazioni Unite, dopodiché il campo era intoccabile, e abbassare la bandiera italiana. E così successe, solo che quando si trattò di abbassare la bandiera italiana, arrivata a metà, Staffan disse basta, perché deve rimanere il segno della solidarietà e dell'amicizia dell'Italia. E lì ci commuovemmo moltissimo. Però la cosa più bella, la soddisfazione più grande, Staffan de Mistura era figlio di una svedese e di un dalmata, credo, di uno di quelli delle zone fra l'Istria al confine, per cui il papà aveva perso la cittadinanza italiana, era polide il padre, era polide lui. E allora ho portato io in Consiglio dei Ministri la proposta di dargli con procedura speciale la cittadinanza italiana. E sapere che ora una persona del genere è sottosegretario di Stato agli esteri, rappresenta l'Italia, un italiano in qualche modo piccolo fatto da me, ma soprattutto un italiano con quel cuore che amava l'Italia al livello di non far abbassare la bandiera italiana fino in fondo, beh, una grande commozione, lo ricordo proprio con gratitudine. Brevemente, perché in radio ahimè il tempo è tiranno e corre via veloce. Una specie di guerra contro il tempo, la nostra. Sì. in particolare alle nostre amiche ascoltatrici, coloro che per esempio vorrebbero cimentarsi in politica, cosa si sente di dirle? Che la politica è la cosa più faticosa del mondo, ma anche la più bella e la più appassionante. Che lo facciano, sapendo che avranno molte delusioni, che dovranno faticare molto, però non c'è niente di più entusiasmante che riuscire a fare insieme con altri qualcosa per tutti. E che la politica non è per forza contrapposizione. Vede, proprio le 21 donne dell'Assemblea Costituente, le ho detto, erano 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una dell'uomo qualunque. Pensi, in quel momento mettere insieme democristiane e comuniste con appunto la situazione che noi avevamo a livello internazionale, l'uscita dei comunisti del governo, riuscirono sempre a lavorare insieme. Cioè, quando si ama il proprio paese si trova ciò che unisce e non soltanto ciò che divide. Quindi auguri a tutte che lo facciano. E c'è un messaggio allora, prima di salutarci, che vorrebbe ancora indirizzare ai nostri amici ascoltatori? Beh, una cosa vorrei, mi veniva in mente proprio venendo in macchina qui, ricordare una persona che è appena morta, Oscar Luigi Scalfaro, e ricordarla per una cosa. Da Presidente della Repubblica, le ACLI qui di Belghe, quelle che avevano curato anche gli emigranti nel primo periodo subito dopo la guerra, mi chiesero di domandare a Scalfaro se sarebbe venuto apposta a Bruxelles per premiare quelli che erano ancora i vivi della tragedia di Marcinelli, Charleroi. Il Presidente della Repubblica venne, premiò sti vecchietti, si commosse con loro, stette con loro una buona ora e tornò via dicendo: loro sì che hanno onorato l'Italia, altro che noi. E questo mi sembra essere veramente un bellissimo messaggio di speranza, non solo per l'Italia ma anche insomma per i governi e per i governanti, perché l'arte del buon governo non è mai stata semplice sicuramente, ma probabilmente non è stata mai nemmeno così difficile come lo è in questo periodo. Sì. Noi siamo al termine, siamo veramente rimasti incantati dalle sue parole. No, è vero, l'ospite più illustre che abbiamo avuto finora, dobbiamo dirlo. Quindi insomma speriamo di poterla riavere nuovamente qui ai nostri microfoni. E a voi auguri, auguri, auguri, che arrivi una voce italiana giovane, una cosa bellissima. Grazie. Ma noi ci proviamo quantomeno. E voilà, eccoci ritornati in studio con adesso dopo questo grandissimo ospite. Siamo anche un po', ma cosa ne dici Fiodalì, siamo un po' imbarazzati, eh? No, incantati, no? Incantati. No, cioè, no? Beh, esprimi il tuo pensiero. Oh, niente, delle belle esperienze che abbiamo ascoltato, una ricca esperienza di vita che sempre fa piacere incontrare. Assolutamente sì, una persona squisita, bello, fa piacere ritrovare le persone squisite che hanno avuto questi incarichi, quindi insomma è vero, un messaggio di speranza finale, direi che la semplicità di questa persona, il modo in cui ci ha parlato, insomma, danno un minimo di coraggio e insomma che le cose possano migliorare. Noi, tra l'altro, da emigranti italiani, perché è ciò che siamo degli emigranti a Bruxelles, insomma, questa cosa fa piacere sapere che c'è una speranza, e anche se il mondo è più piccolo di prima, grazie a aerei e quant'altro, alla comunicazione, alla globalizzazione, uno degli effetti positivi della globalizzazione, insieme anche a tutti gli effetti negativi, così come le medaglie normalmente hanno due facce, però insomma questo ci dà conforto, devo dire. Beh, vabbè, allora, mentre Mary D si appropinqua al suo... Mi piace il verbo appropinquare. Appropinqua al suo microfono, io vi leggo qualcosa sullo spettacolo, cioè una cosa interessante che mi piace è Anima. Anima è l'incontro annuale inevitabile, indimenticabile del film animazione. Anima è un paese incantato in cui le scoperte colorate si succedono a ritmo serrato per la gioia dei piccoli, ma non solo, anche dei grandi. soprattutto io che ho un bambino dentro di me che è abbastanza sviluppato, forse si mangia anche l'adulto. Ci saranno più di 100 proiezioni di tutti i tipi, cioè tutte, con tutte le tecniche mescolate insieme, insomma una notte animata delle prime, dei videoclip, e alla fine, come ciliegina sulla torta, la consegna del cartone d'oro, del disegno, cartone animato d'oro, e faranno di questo festival un outsider del genere in Europa. Allora, non mi resta che invitarvi ad andare a Place Flaget, a entrata da Place Saint-Croix a XL, c'è un mini pass di 25 euro per 5 posti, e poi ci sono delle tariffe ridotte per i bambini, mentre la tariffa piena è di 7,50 euro. Io direi che non bisognerebbe mancarlo, è già cominciato, perché è cominciato il 17 febbraio, quindi qualche giorno fa, ma dura fino al 26. Vi invito caldamente ad andare a vedere, soprattutto se animate come me, se amate come me i disegni animati, e soprattutto se vi piacciono anche quelli giapponesi. Chissà se ci sono i giapponesi. Chissà, andiamo, bisognerebbe andare per verificare. Secondo per me verificare. Non ci può essere un festival del genere pure senza io. I giapponesi. Sono d'accordo. Invece c'è un altro evento molto interessante che Giorgia ha tra le mani, a cui probabilmente Bruxellando parteciperà. Ah, vuoi sapere quest'altro pezzo? Ah, sì. Questo è il pezzo forte. È la fiera, cioè la bestia del libro. Ho sbagliato? Questa sera ti perdono tutto, Giorgio. Ah, che bello! La bestia del libro di Bruxelles, cioè la fiera del libro. La bestia? Di sì, fiera. La fiera, perché? Fiera, fiera nel senso di bestia, animale. La fiera, la bestia del libro di Bruxelles. Anzi, si dice che è un libro bestiale, per dire che è un libro fortissimo, un libro bellissimo, un libro bestiale. C'era anche qualcuno che cantava un fisico bestiale, quindi un po' di anni fa, sì. Qualche anno fa. Beh, la fiera del libro propone, lo sapete, cioè è inutile che ci ripetiamo ormai da 5 anni, il tempo passa, il tempo vola, ma 5 anni ci ripetiamo, sì, perché questa è la nostra, insomma, il nostro punto, il nostro, se vogliamo, un po' il clou. Abbiamo cominciato con il libro, Bruxellando parlava dei libri all'inizio, soprattutto ha continuato anche su questa onda. Beh, insomma, che devo dire, non si può dire niente alla fiera del libro. Ricordaci solo le date? Sì, bisogna solo andarci, quindi il resto ve lo andate a vedere. Le date che è importante, anche perché forse Bruxellando ci sarà e forse riuscirà anche a farvi una diretta, chi lo sa. Ci stiamo organizzando. I mezzi della radio sono in aumento e magari riusciamo a fare qualcosa. Comunque, a tour e taxi, avenue du Pont a Bruxelles, tariffa ridottissima, 6 euro, da 6 a 8 euro. E ricordatevi, queste date sono 5 giorni completi, ma niente di più niente di meno, dal 1 al 5 marzo. Preparatevi, perché già dalla settimana prossima apriranno le porte alla Fiera di Bruxelles, della Fiera del Libro di Bruxelles, e non resterà per molto. Come dicevamo in apertura di trasmissione, il secondo ospite della serata è Antonella Colonna Vilasi, la quale ha pubblicato proprio recentemente un manuale di intelligence edito da Città del Sole. Probabilmente per quanti ne volessero veramente sapere di più, proprio perché il libro è pensato proprio per chi non ne sa nulla, questo è veramente il manuale che stavate aspettando. Antonella! Buonasera, come sta? Buonasera, molto molto bene, bentornata, ben ritrovata. Ben ritrovata, sì. Ce l'avamo sentite. Mi piace di non toccare Bruxelles nella tappa che dall'Albania mi sta portando in molte capitali europee, in conferenze presso università e presso associazioni governative. Comunque Bruxelles è sempre nel mio cuore. Ah, noi siamo comunque felici di averla almeno al telefono, telefonicamente. È già qualcosa. La ringrazio. Facciamo almeno funzionare uno degli effetti, come dicevo prima, positivi della globalizzazione, la comunicazione che si può fare. Allora, parliamo di questo suo libro che ha suscitato, ho notato, tantissimo interesse, quindi le farò una domanda veramente, insomma, elementare: perché scrivere un libro dedicato all'intelligence? Sì, perché in realtà come sostiene nella prefazione Stefano Folli, poche cose al mondo sono mal comprese come i servizi di intelligence, e poche sono più utili nella vita di una società organizzata. Infatti l'intelligence è spesso nella pubblica opinione ammantata da una sorta di mistero, tant'è che il vocabolo intelligence è usato ed abusato in racconti, spy stories, pubblicistica, mass media, e quindi risveglia però una aura di particolare di mistero, ora affascinante, ora essiccabile, ma sempre evanescente e spesso opaca. E quindi il mio è un tentativo di spiegare cos'è l'intelligence, come funziona, e soprattutto all'uomo comune, all'uomo della strada, che vuole capire il funzionamento, il meccanismo. E il testo quindi non è diretto solo agli esperti, ma ad un pubblico più ampio. Quali sono state le sue fonti allora? Dunque, le fonti sono state le fonti edite, le fonti inedite, i siti internet ufficiali dell'intelligence mondiale, tra cui anche quella belga, www.nil.be/is/. Il sito dell'intelligence belga, per esempio, oppure quella del Mossad, oppure dell'Irlanda, oppure degli Stati Uniti o di altri paesi. Inoltre l'altra fonte è l'internet, e quindi diciamo i documenti su the provisions, per esempio executive order o global trends, oppure the intelligence community's knowledge of December 11, eccetera, oppure tantissimi documenti relativi alle commissioni, per esempio quella americana, Commission on the Role and Capabilities of the United States Intelligence Community, e molti documenti sull'United States Intelligence Community e così, e anche il National Archives Federal Register ed il National Intelligence Council. I documenti sono moltissimi, poi ci sono gli articoli da riviste e le altre fonti, per esempio Oxford Analytica, non so se sapete di che si tratta, www.oxan.com, eccetera, eccetera. Però insomma sono fonti ricchissime, effettivamente, quasi, oserei dire, accessibilissime. Dunque queste sono quelle che si possono trovare, perché andando nella fotografia anche dei vari governi, delle varie intelligence governative, già ci sono dei documenti che si possono scaricare su quelle che sono le guidelines delle linee relative alla sicurezza nazionale del governo che stiamo trattando. E quindi, e tornando al testo, il libro è diviso in due capitoli. Il primo capitolo si riferisce agli aspetti teorici, quindi la sicurezza nazionale, l'intelligence e l'intelligence nelle relazioni internazionali e nei processi decisionali, per poi delineare il funzionamento dell'intelligence e quindi il processo informativo, che è un processo ben definito che è formato da vari momenti e fasi: la fase direttiva, la fase della ricerca e della raccolta delle informazioni, elaborazione e analisi le fonti di informazioni, la distillazione, l'analisi e infine la diffusione finale del report. Il secondo capitolo invece tratta l'intelligence in un mondo multipolare, e quindi il futuro dell'intelligence dopo la guerra fredda, all'indomani della caduta del muro di Berlino nel 1989. Per poi trattare il problema della sovranità nel contesto della globalizzazione, come dicevamo prima, e aggiungere a una sorta di forecast, di previsione di quello che è il punto di arrivo dell'intelligence a 360 gradi. Dal punto di vista degli aspetti teorici, posso segnalare, e il libro appunto ribadisce i concetti che il sistema internazionale in via di continua e tumultuosa trasformazione, e i vecchi stilemi sono saltati o comunque non riescono più a rappresentare in maniera completa il mondo contemporaneo. Come afferma Rosnò, la politica non è più internazionale, ma post-internazionale. Una politica, cioè, che non si svolge più soltanto tra nazioni, ma tra sottosistemi di queste. Una politica, quindi, che è turbulence, come sostiene appunto Rosnò nel suo libro edito dal Princeton University Press, Turbulence in World Politics, a Theory of Change and Continuity. La politica quindi è turbolenta, con una fondamentale caratteristica, l'incertezza. La turbolenza politica implica quindi un mutamento di parametri, cioè dei confini del sistema, che non riescono più a contenere la fluttuazione delle variabili. Il nostro sistema è quindi globalizzato, multipolare, le minacce sono ormai asimmetriche e l'instabilità è ormai una costante. Certo. Il movimento è quindi è diventato casuale e quindi il trend è quindi casuale e quindi frattale. Beh, allora, visto che parliamo di frattali, di multipolarità, di frattalità, mi interessa molto questo concetto. In realtà credo che la teoria del caos qui si applichi praticamente ogni giorno, su qualsiasi cosa, perché veramente è impossibile gestire, come diceva lei, le variabili sono diventate moltissime. Allora mi sto chiedendo due cose. Uno, esiste ad oggi un'intelligence che prevale sulle altre? Eravamo abituati alla guerra fredda con l'intelligence americana e russa più gli annessi, gli staterelli annessi. Adesso che abbiamo una situazione multipolare, esiste un'intelligence che prevale? E seconda domanda, che le faccio però subito, che effetti dannosi ha avuto realmente la pubblicazione dei dossier da parte del nostro ricercato mondiale Assange? Dunque, io penso che molte di quelle informazioni già erano conosciute. Indubbiamente l'effetto è stato di grande fastidio, di grandissimo fastidio, perché alcune mails intergovernative è meglio che rimangano a livello intergovernativo. Certo. Cioè nell'ambito degli United States, del Ministero degli Esteri americano, e che non vadano in giro, perché spesso sono relazioni tra diplomatici. Certo. E dei diplomatici che sono on the spot nelle varie sedi, nei confronti, quindi relazioni ed email che dalle varie sedi diplomatici mandano alla sede centrale appunto del Ministero. Direi quindi che una sorta di grande fastidio, una sorta di negatività, però indubbiamente molte di queste informazioni già erano disponibili. E invece per quanto riguarda la... Fa parte dell'incertezza che è ormai la regola, il cosiddetto unexpected event, che diventa un'anomalia che diventa normale, l'incidente minore che diventa spropositato, in questo caso si può... La prima domanda riguardo a se esiste un'intelligence che prevale sulle altre, oggi. Dunque, ci sono delle agenzie di intelligence, indubbiamente, che sono molto efficienti. Per esempio il Mossad è una delle più efficienti, però nel 2002 lo stesso direttore del Mossad, uno delle più grandi spie di tutti i tempi, Zivni, segnalò come in realtà anche il Mossad, benché avesse degli uomini, degli agenti, degli analisti di intelligence molto efficienti e anche una vasta rete di informatori in tutto il mondo, in realtà non avessero, saputo nel corso degli anni unire le conoscenze di analisi di intelligence con quelle che erano la conoscenza della storia, della geografia, delle relazioni internazionali. E quindi il Mossad, che indubbiamente è uno dei più efficienti servizi di intelligence di tutti i paesi del mondo. Anche il Mossad ha avuto delle notevoli debacle. Pensiamo alla famosa guerra, ai giorni dello Yom Kippur e tante altre debacle. Altri intelligence molto efficaci sono l'IPI, Inter-Service Intelligence, 100% militare, ed è la terza agenzia di intelligence del Pakistan. L'ISI è stata fondata nel 1948 da un ufficiale britannico ed è strutturata come a somiglianza dei servizi iraniani. È una intelligence molto efficace, molto formata da ufficiali ben addestrati e ha a disposizione un grosso budget governativo. Quali sono le minacce quindi che vedi all'orizzonte? Attualmente le minacce emergenti? Sì. Dunque, a parte, dunque, indubbiamente il network internazionale del terrorismo. Del terrorismo che è anche soprattutto islamico. Ma non solo, certo. E altre minacce sono le minaccia è considerata, e questo lo vediamo nei global trends, anche non so se sa cos'è, il famoso Global Trends 2012. Certo, sì. Sì, Global Trends fa una sorta di elenco di quelle che saranno le difficoltà che negli anni a venire attraglieranno gli stati, tra cui la mancanza di risorse idriche, la desertificazione, i movimenti di popolazioni dalle aree più aride verso zone più, più floride. E il problema della mancanza di cibo. Sappiamo per esempio che vi sono degli stati tipo India e Cina che hanno una popolazione cospicua e quindi il tema di come alimentare, certo. Il tema del alimentare. Altro problema è il problema energetico, visto che il petrolio non è eterno e quindi bisognerà trovare delle risorse alternative. Effettivamente sono tematiche che l'intelligence devono anche tackle, come dicono gli inglesi, devono anche affrontare queste tematiche che saranno le tematiche del futuro. Questo gap appunto che gli stati dovranno day by day affrontare. Certo. Il problema delle risorse idriche è un problema grosso. Sì, è un problema grosso, poi lo vediamo dappertutto, perché pure in Italia stanno cercando di privatizzarlo, quindi si vede che c'è del movimento, sì. Quindi c'è un interesse che sicuramente andrà a svilupparsi. Ah, Antonella, il tempo in radio è tiranno, però avevo un'altra curiosità. Al di là dei miti e delle leggende, chi è secondo lei la spia di tutti i tempi? Ah, la spia di tutti i tempi, ma ce ne sono moltissime. A parte la Matahari che tutti conosciamo, Richard Todd, e poi c'è una spia che Elia Baja, che era una spia kosovara che ha lavorato per i tedeschi e poi durante la Seconda Guerra Mondiale, chiaramente. Di spie ce ne sono tantissimi. Ricordiamoci tutti gli scrittori inglesi che sono stati al soldo dell'MI5, i vari Ian Fleming, Somerset Maugham e tanti altri che appunto scrivevano anche le loro spy stories, conoscendo benissimo la materia in quanto loro stessi erano delle spie. Antonella, è stato veramente un piacere di averti nostra ospite. Noi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori il manuale di intelligence edito da Città del Sole, potete tranquillamente acquistarlo online, quindi insomma lo troverete facilmente in internet adesso, soprattutto. Sì, soprattutto è diventato veramente il nuovo strumento di vendita. Antonella, noi ti ringraziamo, ti auguriamo veramente un'ottima tournée in Italia, perché ho visto che hai fatto tantissime presentazioni in Europa e qualora adesso Londra adesso Londra, quindi insomma Londra, sì. Best of luck. Malta, Londra, Atene, poi New York e poi altre città europee, Madrid. Benissimo. Beh, se ti capita di passare da queste parti, ovviamente porte aperte. Siamo qui. Grazie. Grazie tante, buona serata. A prestissimo. Altrettanto, grazie. Ciao. Grazie, buonasera, arrivederci. Grazie. Stasera avremo un librangolo molto stretto perché il tempo, ahimè, come dicevamo, in radio è Tyrannosaurus Rex, e quindi vi parlerò della Casa della Gioia di Edith Wharton brevemente, ma diciamo con entusiasmo, forse, comunque, perché comunque è un bel libro e mi piace anche il modo in cui Edith Wharton sta riflettendo sulle classi sociali che lei conosceva, conosceva molto bene e di cui conosceva anche i problemi o le varie sfaccettature e come li illustra con questi suoi caratteri che stanno un po' lottando fra i loro istinti più veri, come l'amore, o che li portano verso le cose più vere, e fra quello che li impone il modo di essere o il modo di vivere di una classe sociale. E in questo caso si tratta di una giovane ragazza di nome Lily Bard, che è bellissima proprio, è una ragazza che affascina chiunque ovunque, però che esattamente è cresciuta in un ambiente agiata e quindi non si può immaginare la sua vita senza certe lussuosità, e quindi al momento che lei incontra l'amore di sua vita, possiamo dirlo così, Lawrence, non è pronta di accettare questo amore proprio perché lui è un avvocato che ha pochi soldi fondamentalmente. E anche se ho semplificato tantissimo la storia, mi ricorda qualcuno. Cioè, ho semplificato tantissimo la storia perché ovviamente c'è questo, davvero l'anima di Lily la porta davvero verso Lawrence, cioè nel senso, cioè, loro anche discutono e nessuno dei due ha veramente il coraggio di fare il grande salto e di cominciare qualcosa di nuovo insieme. E Lily ha un suo codice d'onore che rispetta, però si caccia nei guai, ci sono varie cose che succedono ovviamente nella sua vita, dove sembra sempre di fare tutte le cose sbagliate, ma fondamentalmente quello che sta facendo è di, in un certo senso, di evitare di arrivare in mani altrui alla fine, senza saperlo però lei stessa, cioè a volte le pretensioni di una classe sociale vuol dire anche una certa insincerità verso se stessi, che alla fine porta a delle scelte che nemmeno la persona in questione riesce a spiegarsi. Comunque è un libro interessantissimo, bello, e quindi ve lo raccomando, però per le sere in cui essere un po' tristi, un po' malinconici, non vi dispiace. Edith Wharton, La Casa della Gioia. E lo stile che usa? Lo stile? Sì. È una scrittrice dell'inizio Novecento, quindi lo stile è semplicemente... cioè... coloniale. Cioè, è una scrittrice americana, però. Cioè, si tratta della high society newyorkese, quindi... Ci sarà molto vezzoso, vezzeggiativo. Cioè, ci vediamo bene che è una critica di classe sociale, cioè la rivendicazione o comunque una contestazione della classe sociale a cui apparteneva la protagonista. Sì, diciamo di alcuni tratti di questa classe sociale, non è una critica senza, cioè anche la scrittrice viene da questa società, che però alla fine ha lasciato perché, cioè, lei aveva il marito che era aristocratico, cioè era un banchiere ricco, però aveva dei problemi mentali, quindi alla fine la Edith Wharton si è separata da lei, che era assolutamente stranissimo in quegli anni, e si è trasferita in Europa per vivere. Vabbè, questo tempo Edith che veramente Wharton corre velocissimo, sì, varrà la pena leggerlo, quindi un nome, una garanzia. Saluto Dani M in regia. Ciao. Saluto il piccolo François. Ciao. Saluto Giorgetto. Ormai tutti lo conoscono come Giorgetto. È appunto. Il mio nuovo nome è Giorgetto. Ne avevo un altro che si è già dato. Giorgetto. Fiordaliso. che anche seguirà insomma questo suo brevissimo intervento. Martedì prossimo preparatevi, perché abbiamo due interviste, tra cui una con un cantante italiano molto molto noto. Daniele in regia fa segno che i minuti, i secondi sono finiti, tagliando, quindi io saluto veramente tutti voi. Maridì vi saluta, vi dà appuntamento quindi a martedì prossimo. Ascoltateci, Lucio Dalla sarà con noi. Ciao!